24 mattino con Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori. Allora, Oscar Giannino per qualche giorno solo, perché il suo fratello in questa trasmissione, ma anche nella vita è così, quando si diventa amici e si conduce insieme si prende qualche giorno di meritato riposo. Quindi vi beccate Oscar Giannino con quindi una dose eccessiva, non equilibrata, ma vedrò di temperarla, di amore per il libero mercato e liberismo. Sapete che io e Luca facciamo le parti, per così dire, cani e gatti. Lui è più solidarista, io più individualista e così via. Però non vi preoccupate, sarà una conduzione alla altezza dei guai dell'Italia, quindi non troppo pessimista per non inguaiarvi nei giorni dopo Natale, in cui già dovete sgravare l'eccesso di valori che avete accumulato in questi giorni, cioè dei trigliceridi, di colesterolo e così via, perché è ovvio, non rientrate nei pantaloni, uomini e donne naturalmente. Al di là di questo, allora, vi dico subito, 800240024 per chi volesse intervenire, 34923866666, lo sapete per i messaggi WhatsApp. Sarà una trasmissione con tre ospiti e ci interrogheremo sull'inizio, fine legislatura. Lo so, dici, ma come, già abbiamo mangiato pesante, adesso tu inizi con la politica. No, però lo sapete che si aspettano tutti, domani c'è la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Gentiloni, però troverete su tutti i quotidiani, se non li avete ancora sfogliati, e comunque se non avete neanche ascoltato Cattivacci, la rassegna stampa della nostra Giulia Crivelli, che anche lei sostituisce Luca Trese per qualche giorno, domani c'è questa conferenza stampa finale di Gentiloni, ma c'è poi lo scioglimento delle Camere per andare a votare, ci si attende il 4 marzo. Ci interrogheremo innanzitutto, prima domanda che vale anche per voi, tutti i giornali spiegano Gentiloni non si dimette neanche per così dire per formalità, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, no, resta in carica con tutti i poteri. Vedremo perché. Ci interrogheremo con un costituzionalista, Stefano Ceccanti, che conoscete bene, vicino al PD, su cosa significa e che cosa Gentiloni farà e che cosa potrà fare, che cosa vuole fare e magari che cosa potrà fare anche dopo, perché lo sapete, con questa legge elettorale nascerà un governo difficile, complicato. La legge elettorale è stata fatta apposta, io l'ho sempre detto, per chi l'ha concordata, per tentare di rendere il vostro voto consultivo, per così dire, per poi consentire ai partiti di avere mani libere, di fare quello che vogliono, e quindi potrebbe restare in carica se poi non nasce un governo, anche chissà per quanto, vedremo. Ma intanto questa è la prima questione: non si dimette, bene o male, e quindi resta con tutti i poteri e non solo per ordinaria amministrazione. Pensate che sia giusto così? Meglio così magari, anche perché se avete un buon giudizio di Gentiloni. Con una voce un po' più critica invece che non troppo della Del Foglio, che ci seguirà, vedremo di fare un bilancio della legislatura chiaro e scuro, insomma, visto che anche qui ci sono opinioni discordanti. Per il Fatto Quotidiano è stata una legislatura di cui è stata una lettura molto critica. Vi richiamo un commento che mi ha molto colpito, perché è il commento forse più positivo che ho letto in questo fine legislatura fino a questo momento, sulla stampa, quello di Marcello Sorgi, che dice: tutto sommato questa legislatura, sia per la maggioranza che per le opposizioni, ha dato più prova di responsabilità di quanto non si immaginasse. Voi come la pensate? Ecco, poi prima che finisca la trasmissione, una testimonianza, perché pare che ci sia un solo partito che deve raccogliere davvero le firme per presentarsi alle elezioni, poiché tutti gli altri, anche i minori, le varie seconde, terze, quarte, quinte, seste gambe delle coalizioni intorno al PD e al centrodestra, pare che abbiano l'esenzione per via di avere parlamentari di gruppi che avevano che consentono quindi l'esenzione di partecipare alle elezioni senza dover raccogliere le firme. Me ne è rimasto uno, Più Europa, Bonino, Radicali, e Più Europa e le firme le deve raccogliere, e quindi ascolteremo Benedetto Della Vedova, perché il problema è che essendo rimasti soli, e per di più la legge elettorale attuale è una trappola, perché chiede di raccogliere le firme solo quando ci sono i candidati veri, ma se sei in una coalizione, chi non le deve raccogliere, i candidati veri li definirà entro il 20 di gennaio, ma tu le firme le devi presentare entro il 29, e quindi rischi di restare a casa. E quindi per questa ragione Emma Bonino ha deciso, insieme ai suoi, di iniziare la raccolta delle firme il 3 gennaio, ma da sola, senza più collegarsi con nessuno. Vedremo, sentiremo da Benedetto Della Vedova da questo punto di vista che cosa questo implica. Tra l'altro è vero anche che le hanno diminuite le firme necessarie, però lo sapete che resta sempre complicato. Allora, detto tutto questo, andiamo un secondo, un minuto con il traffico e poi torniamo con il professor Stefano Ceccanti. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta... "24 Mattino". Eccoci qua, tornati in diretta, cari ascoltatori, in questo 27 dicembre, San Giovanni Evangelista. San Giovanni Evangelista è l'evangelista che mi ha sempre colpito di più. Vi dirò le cose come stanno, sia per il suo fulminante inizio del testo, un testo filosofico per così dire. Avete presente, rispetto ai tre sinottici evangelisti, il suo inizio è fantastico, dirvi la verità. E poi naturalmente stiamo parlando anche dell'Apocalisse e quindi di qualche cosa che ha a che vedere con l'escatologia. Insomma, un personaggio di un certo spessore. Detto questo, andiamo a ciò che ci attendiamo dalla fine di questa legislatura. Ve lo ripeto, domani troverete sui giornali oggi pezzi sulla conferenza stampa attesa di Gentiloni per la fine dell'esperienza del suo governo, però la fine non è la fine, perché come spiegano molti giornali stiamo andando a uno scioglimento. Tutti si attendono a questo punto, dopo il giro di opinione che ha già fatto tra i leader politici il Presidente della Repubblica Mattarella, uno scioglimento con un voto verso il 4 di marzo. L'esecutivo però appunto resta in carica, resta in carica. E ci sono diversi quotidiani che spiegano che cosa vuol dire questa pienezza dei poteri. Pienezza dei poteri significa per esempio dover affrontare anche questioni internazionali molto molto importanti, come per esempio la presidenza dell'OSCE. La presidenza dell'OSCE, cioè l'organizzazione internazionale che si occupa di sicurezza e cooperazione europea e che è molto importante dal punto di vista delle tensioni che ci sono sia all'interno dell'Unione Europea che nei confronti della Russia. Per esempio Ugo Magri sulla Stampa oggi a pagina 3 scrive un articolo il cui titolo dice tutto: oltre tre mesi di campo libero, Europa, sicurezza, manovra nell'agenda del Premier che resta. Il governo non si dimette, l'importanza della presidenza OSCE. E sotto c'è un'intervista a un costituzionalista, Lippolis, un'intervista firmata da Francesco Grignetti, che espone questa tesi un po' paradossale. E qual è questa tesi paradossale? Virgolette, il paradosso è che senza Camere l'esecutivo diventa ancora più forte, di fatto poteri straordinari. Ma è proprio così? Ecco, allora abbiamo chiamato il professor Stefano Ceccanti, che insegna alla Sapienza di Roma, è stato senatore anche del PD dal 2008 al 2013, lo ringraziamo di essere con noi, buongiorno. Buongiorno. Ceccanti, ma ci spiega innanzitutto al pubblico non versato in materia di diritto costituzionale, com'è questa questione? Sta succedendo qualcosa di particolare? Era tenuto a dare delle dimissioni formali e restare in carica solo per ordine dell'amministrazione, o in realtà le dimissioni si formano solo quando c'è Parlamento, un Parlamento nuovo? Che cosa c'è di nuovo in questa procedura Gentiloni? È vero che avrà poteri più importanti, più straordinari per il fatto di stare in carica con pieni poteri e senza un Parlamento sotto? Sì, per capire queste cose dobbiamo capire che il diritto vive dentro una realtà e quindi è una tecnica di risoluzione dei problemi dentro una realtà. Allora, un conto, quindi la realtà evolve, il diritto evolve. Per forza, perché un conto è se io ho un governo di uno Stato nazionale autarchico che non è collegato ad altri Stati, allora in queste condizioni mi posso permettere di dire c'è il governo, finisce una legislatura, il governo lavora a basso regime sia che si dimetta sia che no, arriva la nuova legislatura, prima che si formi quello nuovo, quello a quel punto per forza si dimette e lavora anche quello a basso regime, aspetta a risolvere i problemi finché non si sia formato il nuovo governo. Queste sono tutte teorie che troviamo anche nei nostri libri, ma che corrispondono a un periodo di un governo di uno Stato nazionale isolato. Soprattutto l'Unione Europea, di cui noi facciamo parte, cambia radicalmente il problema, perché buona parte delle decisioni che noi prendiamo sono a livello europeo. Avvengono per esempio all'interno della riunione dei ministri dell'economia e delle finanze, avvengono all'interno della riunione del Consiglio europeo. Non è che il Presidente del Consiglio italiano si presenta all'Unione del Consiglio europeo dove si vota e dice: sapete com'è, siccome ci sono le elezioni io non voto, e comunque gli altri decidono lo stesso. Esatto, non è che aspettano noi. Ecco, allora tutte queste teorie noi le dobbiamo ripensare alla luce di quel potente fattore di integrazione che è l'Unione Europea, per cui chiunque si trovi lì comunque decide. Questa è la realtà. Poi tutti gli schemi teorici li dobbiamo costruire a partire dalla realtà, che è comunque un fatto con cui ci dobbiamo scontrare. E ricordo che tra marzo, aprile e massimo metà maggio, perché poi c'è il Consiglio Europeo a giugno, l'architettura della cosiddetta nuova Europa, quella cerchi concentrici rafforzati, insomma, sia Merkel che Macron hanno detto: noi in quei mesi la definiamo, chi c'è c'è, ecco, e quindi significa che è interesse dell'Italia, tra virgolette, esserci al pieno dei poteri, no? Esatto, comunque sia, il vertice di marzo, quello in cui si definisce la proposta Merkel e Macron, c'è Gentiloni di questa legislatura, perché comunque le nuove Camere prima di aprile non si riconoscono. A quello di giugno, dove si dovrebbe votare, io non so come finiranno le elezioni. Se finiscono con un esito incerto, il nuovo governo non c'è ancora Gentiloni, e Gentiloni prende gli impegni. E quindi, diciamo, è per questo che, tornando indietro, allora si capisce perché il Presidente della Repubblica ha concordato col Presidente del Consiglio che lui non si dimettesse, e ha cercato di evitare che il governo fosse sfiduciato al Senato sulla legge sulla cittadinanza, su cui avrebbe dovuto votare, mettere la questione in fiducia, perché comunque sarebbe stato quel governo a prendere quelle decisioni. Allora è più coerente che le prenda non essendo sfiduciato e non essendo dimissionario. Ma nella serie storica dei governi repubblicani, poiché ci sono stati anche fine legislatura, voglio dire, io mi ricordo, già facevo, ohimè, attività di non solo di informazione ma anche politica in un partito, scioglimenti tra virgolette concordati, per così dire, ci fu una nella prima repubblica, ai tempi del pentapartito, del contrasto tra la guida democristiana e socialista, una legislatura che finì con un governo Fanfani. Ma ci sono precedenti del tutto analoghi quindi a questi di Gentiloni, oppure no, è un inedito? Sì, dunque, a dire la verità, la prima repubblica, tutte le ultime legislature e anche alcune della seconda sono state realmente anticipate, nel senso che non duravano 5 anni, e quindi in quel caso erano realmente anticipate, ma perché il governo si dimetteva o perché il governo addirittura era sfiduciato. Il caso che fa lei del governo Fanfani, addirittura nacque morto, proprio per quello, esattamente, con quei governi lì che comunque qualcosa decidevano, perché qualcosa si faceva anche allora tra un governo e l'altro, la scelta era obbligata. Il problema sorge con gli scioglimenti cosiddetti tecnicamente anticipati, perché la legislatura in teoria da noi finirebbe con la data della prima riunione delle Camere precedenti, cioè noi abbiamo votato l'altra volta a metà febbraio, ma le Camere si sono riunite a metà marzo. Secondo le nostre norme, qualsiasi scioglimento che intervenga prima di metà marzo, cioè prima della prima riunione delle scorse Camere, sarebbe anticipato. Ma in realtà, se si fa uno scioglimento che porta a votare dopo 5 anni della volta prima, in questo caso sarebbe il 4 marzo, l'altra volta si è votata a metà febbraio, in realtà è uno scioglimento tecnicamente anticipato, è solo una finzione che sia anticipato. In questi casi qui, come accadde per esempio anche nel 2006, l'ultima volta, normalmente non si chiede al governo di dimettersi, il governo va alle elezioni senza dimettersi. Senta, le chiedo un'ultima cosa su questo particolare della legge elettorale, su cui poi più tardi sentiremo, come ho già detto agli ascoltatori, per informarli meglio, Benedetto della Vedova. Benedetto della Vedova e Emma Bonino sostengono la legge elettorale, di cui lei è esperto, insomma, Ceccanti è uno degli animatori dai tempi, voglio dire, della raccolta delle firme, quando ci impegniamo tutti, bei tempi allora, per il maggioritario, tanto tempo fa. E comunque Benedetto della Vedova ed Emma Bonino dicono: nella legge elettorale c'è, tra le tante, ma un'incongruenza particolare, perché chiede alle formazioni non presenti in Parlamento, che quindi devono raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni, chiede di farlo solo una volta che, se collegate con altri, i candidati uninominali siano definiti. Però è ovvio che i partiti che non devono presentare le firme li definiranno entro il 20 di gennaio, ma noi poi il termine per raccogliere le firme è il 29, noi siamo piccoli, così significa non poter raccogliere davvero sui nomi, ma falsificarle o chiederle ad altri, e così però allora a questo punto andremo da soli e cominciamo a raccogliere subito tutti i candidati nostri. Hanno ragione o hanno torto a dire che è una forzatura incomprensibile della legge elettorale? No, hanno ragione. Io però penso che sia possibile interpretare la legge elettorale in modo conforme alla Costituzione, perché un'interpretazione della legge elettorale che mi crea una disuguaglianza delle opportunità, per cui chi non è già presente in Parlamento o non può andare in una coalizione, o se ci va rischia di rimanere escluso, è palesemente incostituzionale. Pare anche a me. E quindi voglio dire, io immagino che sia possibile trovare una soluzione di un'interpretazione che la renda conforme alla Costituzione. Detto questo, io ripeto, questa cosa della raccolta delle firme, che ci trasciniamo di volta in volta, con interventi all'ultimo secondo magari per abbatterne il numero e così via, nasce un po' con una disciplina che a me non è comprensibile, cioè, perché il punto è, sembra solo un ostacolo all'entrata. Io sono per la raccolta, ma a quel punto la raccolta dovrebbe valere più o meno per tutti con gli stessi criteri, mentre invece qui si, tra virgolette, raccattano parlamentari in una legislatura che ha visto già 564 cambi di casacche. C'è chi li raccatta all'ultimo secondo, perché a quel punto si portano il bollino di esenzione delle firme. Anche questo non mi sembra molto corretto. Lei che dice? Credo che se la Camera avesse fatto la stessa riforma del Senato, perché il Senato ha fatto una riforma in fine legislatura per cui i gruppi si possono costituire solo all'inizio legislatura, ecco, questo problema sarebbe risolto a monte, nel senso che la presunzione di rappresentatività ci sarebbe, perché quello era già presente all'inizio legislatura e quindi anche la norma verrebbe interpretata in modo coerente, senza questi effetti di incentivo al trasformismo che dice lei. Grazie al professor Stefano Ceccanti. E adesso, per un bilancio un po' critico, poi naturalmente avremo domani, commenteremo poi dopodomani anche la conferenza stampa di fine anno di Gentiloni, ma iniziamo con un bilancio un po' critico di questa legislatura, per capire un po' cosa ci lascia. Perché oggi io ho letto un articolo sulla Stampa, lo prendo come appunto partito contrapposto, forzando un po', mi dispiace per l'autore, ma insomma Marcello Sorgi sulla Stampa ha scritto un bilancio di questa legislatura che mi ha abbastanza sorpreso, perché molto molto positivo, per così dire, dicendo: beh, tutto sommato sì, i provvedimenti del governo Renzi innanzitutto, quelli sul lavoro e non solo sul lavoro, anche il tentativo di riforma costituzionale poi bocciato ma in definitiva approvato dal Parlamento, e poi anche l'opposizione ha rinnovato, per così dire, in questa legislatura le sue leadership e le sue proposte, si è riusciti a fare una riforma elettorale. Il Rosatellum, sarà che a me non piace, però invece Marcello Sorgi dice che è una buona riforma. E detto tutto questo, sull'immigrazione si è riusciti a svoltare con il ministro Minniti. Insomma, tutto sommato questa legislatura è meno peggio di quanto i critici dicano. Questo è Marcello Sorgi, pagina 25 della Stampa. Abbiamo con noi Antonio Padellaro del Fatto, e chiedo a lui: hai questa stessa impressione, Antonio? Ma guarda, se non fosse per il Rosatellum, che condivido, la peggiore riforma elettorale, peggior sistema elettorale che si potesse approvare, quindi che creerà problemi non da poco nelle prossime elezioni e quindi nella prossima legislatura, e sostanzialmente non c'è da bocciare questa legislatura, no, in maniera totale, tutt'altro, nel senso che è vero che comunque, soprattutto nell'ultima fase, quella del governo Gentiloni, e da qui anche tutte le considerazioni che sono state fatte sul governo che va avanti per l'ordinaria amministrazione, no? Questo governo di ordinaria amministrazione che tutto sommato va malissimo, no, perché l'ordinaria amministrazione in questo paese è già una grande conquista. Sì, noi dobbiamo temere l'amministrazione straordinaria, sì, che gli uomini della provvidenza, diciamo, non portano molto bene all'Italia. Gli uomini della provvidenza non sarebbe, ecco, questa legislatura non sarebbe da bocciare, ripeto. Certo, un altro elemento negativo è la cosiddetta riforma costituzionale. Abbiamo perso, non dimentichiamolo, sono stati persi mesi, energie preziose, tempo appunto che potevano essere utilizzate in altro modo per una riforma sbagliata, scombiccherata, che poi si è infranta col voto del 4 dicembre. Anche lì, insomma, non è una bella cosa. Un altro elemento negativo, gli elementi positivi alcuni li ha detti Sorgi, non li ripeterò. Un altro elemento negativo, purtroppo, è la frattura che si è operata dentro il Partito Democratico per la gestione chiamiamola così, solipsista di Matteo Renzi, egolatrica, che ha prodotto una spaccatura nel partito e quindi anche sono stati nell'ingranaggio parlamentare, questa spaccatura ha prodotto degli impacci, perché è evidente che se il partito di maggioranza si spacca ne risente tutta la parte legislativa. Per il resto, un'altra cosa da mettere nell'elenco delle cose che non vanno è lo ius soli, ma qui bisogna stare attenti, qui non si tratta di dire sì o no allo ius soli, io ho le mie idee, penso che lo ius soli andasse approvato. Il problema è come è stato, è il modo con cui è stato accantonato, cioè con una somma ipocrisia, perché l'hanno capito anche i muri, che il Partito Democratico a un certo punto ha calcolato che lo ius soli gli avrebbe fatto perdere più voti che guadagnare. No? Sì. Oggi il Messaggero è forse tra tutti i diversi giornali quello che più punta. A pagina 5 c'è una pagina intera con un titolo: il PD e il sondaggio decisivo sullo ius soli, il 53% contro la cittadinanza. E dice che questo poi è stato l'elemento, come dici tu, fondamentale. Insomma. Ma esattamente, dello stesso elettorato del Partito Democratico. Perché non è stato spiegato, non è stata fatta una campagna di informazione, forse perché in questo momento il tema dell'immigrazione è talmente traumatico che anche elettori del Partito Democratico non se la sentono di approvare una legge in cui vedono dei pericoli. Detto questo, lo si poteva dire chiaramente, invece questo trascinamento che c'è stato negli ultimi mesi, un giorno sì, un giorno no, faremo di tutto per approvarlo, e poi abbiamo visto la fine miseranda, no? L'ultimo giorno, l'ultima ora in coda sì. All'elenco dei provvedimenti, e poi praticamente la mancanza del numero legale, è stata una delle scene più deprimenti di una legislatura che tutto sommato non ha avuto elementi così catastrofici, ma si è chiusa nel peggiore dei modi. Allora, noi ci fermiamo qui per un po' di pubblicità, però io ti dico subito, io ti spiego perché invece sono molto critico di questa legislatura, perché penso che questa legislatura è stato il periodo d'oro, San Mario Draghi ci ha offerto un grande scudo, cioè noi abbiamo, al di là del fatto che il nostro debito continuava a salire, malgrado le promesse dei governi, compresi quelli di questa legislatura, noi abbiamo avuto un grande scudo che ci ha messo al riparo da ogni tipo di increspatura del mare, e dovevamo approfittare, in termini di onore del debito pubblico, dovevamo approfittarne per misure strutturali, profonde, l'abbattimento del debito pubblico, mettere mano alla produttività, proprio perché avevamo questo grande scudo di un supereroe, diciamo così, anche se molti dicono fuori dall'euro, torniamo alla liretta. Ecco, invece io penso l'esatto opposto, non lo abbiamo fatto. Tutta la legislatura è tutta misure ad hoc, annuali, discrezionali, per 50 miliardi, abbiamo fatto così, di bonus. Risultato, il prossimo governo avrà per altri 3 anni di nuovo le clausole di salvaguardia fiscali che impegneranno il più delle manovre, perché questo abbiamo deciso di fare in questa legislatura, cari riformisti che dite di aver inciso in profondità nei mali italiani. Non ci siamo occupati né della produttività, non ci siamo occupati nemmeno degli incapienti e dei poveri, che sono al massimo storico, 4.8 milioni la povertà assoluta. Ecco, io per questo sono molto preoccupato per il futuro, perché la decisione di fare banco, perché questa è stata questa legislatura per 3 anni, si è fatta puntando tutto sull'alea invece che sulle misure strutturali. Bisognava concentrare tutta questa quantità di soldi che abbiamo avuto per metà in deficit grazie all'Unione Europea, grazie anch'essa, oltre allo scudo, mentre voi raccontate il contrario in tanti a casa e credete a chi vi racconta il contrario, e ne abbiamo fatto un uso, secondo me, molto discutibile, comunque per me per niente convincente. Ecco, questo è il mio giudizio complessivo, certo sull'economia, ma risentiremo Antonio Padellaro dopo la pubblicità. Mattino. Eccoci qui tornati in diretta. Alcuni ascoltatori dicono: ah, come al solito sei anti-renziano. No, io parlo di numeri. Guardate, per me poteva essere la destra, la sinistra. I 50 miliardi di bonus sono la storia di questa legislatura dal punto di vista economico, insieme al Jobs Act, insieme al fatto che la decontribuzione è data a tutti i tipi di contratti e non a quelli aggiuntivi alle piante organiche, come i fessi, come me, proponevano prima che venissero definiti. Non ha modificato il mix della offerta di lavoro nel nostro paese, come vedete dal fatto che il tempo determinato resta elevatissimo nelle percentuali. Per fortuna sì, abbiamo 900.000 occupati in più, viva, molto onerosa però la faccenda. Io salvo Industria 4.0 alla fine, ma il più dei bonus 50 miliardi di euro, ripeto, fatti grazie al che la BCE ci preservava e grazie al deficit in più per più di 2 punti di PIL che ci hanno concesso con un tenace Padoan che l'ha ottenuto senza rovesciare i tavoli, ecco, questo per me è un giudizio che mi preoccupa molto. Restano le clausole di salvaguardia, che siano tutte cose a tempo, ve lo conferma il fatto che dal 1 gennaio, cari contribuenti sudditi in ascolto, i dirigenti, per esempio la Camera dei Deputati, torneranno a non avere più il tetto dei 240.000 euro, esattamente come i dirigenti della Regione Sicilia, che immediatamente il presidente dell'ARS Miciche ha detto si torna a 400.000 e anche di più, basta comunismo. Qui non c'entra niente il comunismo, c'entra che in qualunque paese, democrazia avanzata, cioè non si può guadagnare i multipli del presidente Trump e prima di Obama che guadagnano i dirigenti pubblici nel nostro paese, e noi siamo un paese invece che brindano a queste cose, e questo dipende dal fatto, cari ascoltatori, che sono state a tutte misure a tempo. Ma Antonio Padellaro probabilmente penserà che io sono troppo duro nel mio giudizio. Che pensi, Antonio? No, non penso che tu sia duro. Tu hai fatto una fotografia, soprattutto dello scudo di Draghi, che è oggettiva. Però c'è un problema che è a monte, e il problema è che la composizione del Parlamento della legislatura che sta terminando era una composizione complicata, dovrai ammetterlo. Ah, certo. Cioè un Parlamento diviso in 3 parti, no? Yes. E con appunto il centro-sinistra, centro-destra e il Movimento 5 Stelle, tre gruppi praticamente quasi dal punto di vista numerico equivalenti, se non fosse che il Partito Democratico alla Camera aveva la maggioranza, larga maggioranza grazie al premio. Ora, questo è il guaio iniziale, è il problema che ha condizionato tutto l'andamento della legislatura e anche la creazione di governi che sono stati, se ci pensiamo bene, governi quasi del tipo istituzionale, cioè molto guidati dal Quirinale. Non dimentichiamo questo, perché prima la presidenza Napolitano e poi la presidenza Mattarella hanno cercato sempre di trovare delle soluzioni di compromesso che appunto tutelassero quei valori, quegli elementi, anche quelle richieste dell'Europa di cui parlava anche il professor Ceccanti prima, e quindi diciamo rispondessero, no, a questa sovranità superiore che è quella europea, cercando appunto di governare un pochino alla giornata, diciamo la verità. Ah, sì. Ora il punto è questo, perché le riforme strutturali di cui tu parli si potevano fare in presenza di maggioranze certe, solide. Il punto è questo però significa, Antonio, che siccome hanno fatto una legge elettorale perché non ci siano quelle maggioranze, esatto, certe, non ci saranno neanche dopo. Ma questo, guarda, ti posso dire qual è il sospetto che può venire di fronte a una legge elettorale di questo genere? È che l'abbiano disegnata apposta perché anche la prossima legislatura sia, diciamo, eterodiretta dall'Europa, la dico tutta. Cioè questo è un paese che forse, secondo alcuni, io non la penso così, non riesce a governarsi secondo, no, i numeri tradizionali di una maggioranza politica che fa quello che deve fare, e ha bisogno di maggioranze anche un po' zoppicanti, ma che rispondano al Quirinale e dal Quirinale rispondano a Bruxelles. Se non diciamo le cose un pochino come stanno, forse non capiamo anche. Ma però a me sembra che oramai, a me, Antonio, sembra che, come non avrei mai immaginato quando l'Europa era una cosa positiva, è diventata così trasversalmente un cemento l'antieuropeismo e l'anti-euro e così via, che mi aspetto più un governo, che ne so, di anti-euro, di destra, di sinistra e di grillini che il contrario. Cioè, naturalmente, poi Dio benedica l'Italia, questa resta la mia opinione, anche perché altri la pensano diversamente, e chissà, forse bisognerà rassegnarsi all'idea di ripetere una storia che molti hanno dimenticato, perché io c'ero quando c'era la Liretta e noi eravamo in ginocchio a chiedere i prestiti, però pare che tutti se lo siano dimenticato. Però io mi aspetto più cose così, tu invece dici no, potrebbe esserci il contrario, tutti a quel punto fanno male all'Europa ma si rassegnano a un governo dei vincoli esterni. Sì, guarda, anche perché il governo dell'anti-europeista o populista, per capirci meglio, sì, dovrebbe essere quello tra 5 Stelle e Lega, sì, a parte il fatto che secondo i sondaggi non ci sarebbero i numeri, sì, o ci sarebbero proprio per un pelo, ma tu immagina, vuoi immaginare un attimo, in una specie di incubo, cosa sarebbero le sedute, no, del governo, di un governo Salvini Grillo? Non lo so. Io a quel punto penso che essendo la maggioranza ci provino. Io sarò in minoranza, ma ci provino. Perché devo escludere? No, ma non sto dicendo che non devono provarci. E anzi, ti dirò di più: se il Movimento 5 Stelle vince le elezioni, cioè il primo partito, secondo me ha il diritto di provare a fare un governo. Sono d'accordo. Ma ci mancherebbe altro. Il problema poi è mettere insieme dei programmi e anche delle sensibilità e delle storie che non stanno insieme. Però, è utile... Antonio, quello che vuoi, ma le elezioni degli ultimi anni in paesi di forte radice europea, poi ci possono essere stati i decenni del blocco comunista, eccetera, però la Polonia, l'Ungheria sono paesi di fortissima radice europea, ci dimostrano, l'Austria pochissime settimane fa, ci dimostra che quello che sembra improbabile avviene. Perché la fuga attraverso la costruzione di grandi tesi che le forze collusive del passato, non quelle politiche solo, quelle politiche, quelle dell'economia, quelle bancarie, raccontano colpe altrui per non dover ammettere le proprie. Anche in Italia questo è il meccanismo per cui si possono fondere paure degli stranieri, neanche più solo gli immigranti, degli stranieri, perché gli stranieri ormai sono francesi, tedeschi, tutti stranieri, degli stranieri, la colpa attribuita ai tecnocrati dell'Europa, la colpa attribuita a una moneta straniera che ci rende con un debito denominato in una valuta che non è la nostra, cioè, tutto si fonda, è una grande in realtà teoria per allontanare da sé le responsabilità che sono italiane. Anche negli altri paesi è stato così, e negli altri paesi ha portato governi che oggi sono quelli dell'Ungheria, della Cechia, dell'Austria, eccetera, eccetera. Quindi l'Italia può fare eccezione, Antonio? L'Italia è troppo più importante, mi permetto di dirlo, dell'Austria e dell'Ungheria. Mi scuseranno gli ascoltatori di origine austriaca e ungherese. L'Europa non può fare a meno dell'Italia, cioè non può tollerare un'Italia che appunto si unisca a questa, io ritengo questa follia, no? Perché insomma adesso anche abbiamo visto che perfino i 5 Stelle sono molto più prudenti sul tema dell'uscita dall'euro, per non parlare dell'uscita dall'Europa. Ecco, credo che l'Italia, forse, vogliamo appellarci allo stellone? Vabbè, per i mondiali non ha funzionato, vediamo se funzionerà per la politica. Appelliamoci perché, per carità, gli italiani votino secondo coscienza e speriamo che siano in tanti a votare, perché l'altro grande problema... Ma io credo che alla fine sarà un po' più così, ecco. Vediamo, però per il momento non facciamoci la testa. E che scelgano soluzioni di buon senso. Di buon senso, un po' più che la Federazione Italiana Gioco Calcio. Ecco, questo io mi accontenterei già di quello. Comunque, grazie anche a Antonio Padellaro. Ed eccoci qua, tornati. Vi avevo detto, c'era questa questione. Abbiamo iniziato anche chiedendolo con Stefano Ceccanti. Non solo vi ha spiegato il professor Stefano Ceccanti di questa caratteristica, che continueremo ad avere un governo nel pieno esercizio dei suoi poteri, anche perché ci sono importanti appuntamenti internazionali, uno dei quali è la riforma dell'Europa. Poi c'è la presidenza dell'OSCE, la nuova missione antiscafisti in Niger. Vi segnalo che tra tutti i giornali più critico, per esempio, ma con buone ragioni secondo me, per questa missione che è stata deliberata un po' a sorpresa per rafforzare la presenza italiana in uno dei canali da cui provengono dal Centro Africa i migranti, e tenete conto che in questi giorni di Natale ne abbiamo salvati quasi 400 dal Mediterraneo, perché oltretutto c'era il mare grosso, addirittura sono usciti pezzi in cui si diceva di informazione sulle agenzie, i migranti abbassano il prezzo in questi giorni perché aumenta il rischio con il mare grosso di morte, cose terribili, però abbiamo deciso di mandare qualche centinaio di uomini in Niger, e dicevo, tra i diversi giornali c'è un editoriale di Gaiani, che è un esperto di strategia politica militare eccetera, che io ho molto condiviso, che avanza qualche concreto elemento critico verso verso la deliberazione del governo argentino di mandare i nostri soldati in Niger, più che altro perché è una missione molto dietro e in ritardo rispetto a quella francese, secondo me non definisce meglio il tipo di iniziativa che potevamo assumere lungo quel corridoio africano, ma in un'altra modalità. Però ve lo segnalo, se siete appassionati di geostrategia e di politica della difesa, anche oltre che di politica estera italiana. Ma vi avevamo detto, oltre a tutti questi compiti che sono importanti per il governo Gentiloni, abbiamo chiesto a Ceccanti: c'è un'anomalia in questa legge elettorale, è un'anomalia denunciata da Più Europa, da Emma Bonino, da Benedetto Della Vedova, che avevano iniziato un dialogo con il PD per verificare l'ipotesi di alleanza in coalizione in vista delle prossime elezioni. Però adesso dicono: no, scusate, la legge elettorale dice noi dobbiamo raccogliere le firme, tanti altri sono esentati, noi invece li vogliamo raccogliere. Ma per raccoglierla, secondo la legge elettorale, che facciamo? Dobbiamo aspettare la denominazione dei candidati di convergenza, degli luminari, degli altri? Ma gli altri lo faranno all'ultimo secondo, non devono raccogliere le firme. Allora a sto punto non sappiamo cosa dirvi, la legge elettorale è anomala e ci pone un'asta. Il professor Ceccanti ha detto: beh sì, hanno ragione, dovrebbe cambiare quell'interpretazione della legge. Però sentiamo da Benedetto Della Vedova, membro di Più Europa, che è sottosegretario del Ministero degli Esteri nel governo Gentiloni, lo era anche prima nel governo Renzi, come stanno le cose. Perché il professor Ceccanti ha detto: ma insomma, dovrebbe passare un'interpretazione, però l'interpretazione la deve dare qualcuno. Nel frattempo loro devono decidere se vogliono raccogliere le firme per bene o far finta. Ma sapete che tanti processi abbiamo visto fiorire poi di quelli che le firme le raccolgono per finta, e non è una buona cosa. Benedetto Della Vedova, grazie di essere con noi. Grazie dell'invito. Ma sì, le firme vanno raccolte bene, perché tra i tanti che hanno avuto guai giudiziari, condanne, ci sono i grandi partiti che in teoria dovrebbero farlo velocemente bene, e non ci sono nella storia, ad esempio i radicali, che sono un pezzo decisivo di Più Europa. Quante firme sono? Ma le firme sono tra i 25 e i 28 mila, perché c'è sempre un minimo e un massimo di firme da raccogliere, bisogna andare, diciamo, nella media, a metà dei due limiti per essere sicuri. Quindi sono 25-26 mila firme da raccogliere a gennaio, non so lì che tempo fa, ma insomma il tempo non è bello, almeno al nord, vanno raccolte in 63 collegi, quindi non è che uno dice: vabbè, 25 mila firme tra Napoli, Milano, Roma e Palermo si raccolgono. No, vanno raccolte, e questa è la difficoltà ulteriore anche rispetto a leggi precedenti come il Porcellum, in un numero maggiore di collegi. E il punto è però che se uno si vuole apparentare deve aspettare gli altri. Ma noi, leggendo la legge, io confesso l'ho votata, ma insomma, mentre facevo un altro mestiere, quindi non ho seguito l'iter parlamentare. Leggendo bene la legge ci siamo accorti che c'è la necessità, per fare le cose bene e senza rischi e senza sorprese, per fare le cose bene c'è bisogno di una interpretazione. Ma insomma, quando il Ministero dell'Interno darà le istruzioni per usare questa legge elettorale nuova, mai usata, non ci sono precedenti, noi chiediamo che specifichi, come hai detto tu e come ha detto in modo perfetto Ceccanti, che le liste che devono raccogliere le firme, in questo caso temo solo noi, perché nella lotteria o nell'asta delle esenzioni, noi che siamo una forza nuova, fatta non solo da persone nuove, naturalmente vogliamo comportarci come tali. Se la legge prevede che le forze nuove devono raccogliere le firme e rappresentarsi, noi siamo pronti a raccogliere le firme. Ma noi chiediamo che sia chiaro, urbi e torbi, che una forza nuova deve poter raccogliere le firme con i nomi dei candidati delle proprie liste, naturalmente, ma senza dover indicare i nomi dei candidati nei collegi uninominali, che saranno un frutto successivo di un apparentamento che fino a 40-42 giorni prima del voto non esiste giuridicamente, e i collegi uninominali vengono definiti senza che sui candidati vengano raccolte firme l'ultimo giorno da una dichiarazione congiunta delle varie forze che si apparentano. Teniamo presente che per una lista nuova a regime la legge elettorale prevede la necessità di raccogliere 100.000 firme e la legge prevede che queste 100.000 firme possano essere raccolte nei 6 mesi prima del voto. Ora è evidente a tutti che non puoi sei mesi prima avere, quindi che quella che noi proponiamo sia l'unica interpretazione coerente e logica è difficile, difficile negarlo, però noi vogliamo che sia chiaro, noi vogliamo fare le cose bene. Chiudo con un dato: nel Porcellum, cioè la legge con cui si è votato per 3 volte anche l'ultima volta nel 2013, erano previste le coalizioni con il capo della coalizione, il programma comune, Berlusconi Prodi, Berlusconi Bersani, Berlusconi Rutelli, sempre Berlusconi. Cioè, allora si raccoglievano le liste che dovevano raccogliere firme, raccoglievano le firme per tempo, partendo anche mesi prima o un mese e mezzo prima, senza indicare a quale, in quale coalizione sarebbero entrati. Eh già. Perché era normale così, io raccoglievo le firme per la lista Giannino e poi successivamente decidevo se allearmi con Prodi o con Berlusconi, facendo un effetto, provocando un effetto sistemico pazzesco. Chi andava a Palazzo Chigi, quante liste superavano o no lo sbarramento, quali liste avrebbero avuto il premio di maggioranza. Questo secondo me è un argomento a fortiori che spiega che l'unica modalità per consentire, perché è un detrimento per noi naturalmente, ma è un detrimento anche per le liste, grandi o piccole, che vorrebbero apparentarsi con noi. E questa interpretazione il Viminale entro quando la deve dare? Ma guarda, il 3 gennaio entrano ufficialmente in vigore i nuovi collegi. Certo. Sono stati pubblicati in Gazzetta, diventeranno ufficiali il 3 gennaio, quindi avremo 26 giorni per raccogliere le firme. Per noi quello è l'ultimo giorno utile, da lì noi dobbiamo cominciare. Eh sì, perché altrimenti dovete per forza, perché altrimenti vi restano poi 6 giorni, cioè, ma pochissimi giorni fino a sapere i candidati degli altri. Va bene, noi ne daremo puntualmente conto, perché, caro ascoltatore, a differenza di quello che alcuni dicono, questa è propaganda, no, questa è una finestra su una questione di generale interesse di rispetto delle libertà democratiche, libertà di accesso, perché come vi ha spiegato il professor Ceccanti, qui c'è una asimmetria per l'accesso alla rappresentanza e quindi è un problema democratico, riguarda tutti. Comunque, grazie a Benedetto Della Vedova, ripeto, noi ci impegneremo a seguire questa interpretazione perché riguarda i diritti di tutti, chiaro? Di tutti, rispetto al mercato della compravendita delle esenzioni, perché è già in Parlamento, scusate, ma di questo si tratta. E allora, negli ultimi 2 minuti, adesso, anzi, l'ultimo minuto e qualche cosa, flash. Primo, solidarietà ai romani, perché con tutti i guai che avete, leggo che c'è la fuga degli sponsor dall'ATAC, Repubblica pagina 18, sponsor in fuga dai boss dell'ATAC, l'ultimo scivolone della capitale, effetto di scioperi e guasti, l'amministratore delegato lancia l'allarme, pochi mezzi in giro, gli investitori si scoraggiano, ti credo che si scoraggiano, e non era il caso di deliberare l'aumento per i quasi 16.000 dipendenti comunali, secondo me, io su questo continuo a pensarla diversamente dal sindaco e dalla giunta Raggi di Roma, deliberato in un giorno, 9 secondi a testa quelle pratiche, solo 17 no su 16.000 richieste di promozione, perché nel frattempo le municipalizzate continuano ad andare a pezzi. In più, sottoscrivo e faccio mio l'appello che lancia, dopo il fatto che mi ha dato un velivolo di Stato al re per tornare in Italia, lo lancia un regista italo-argentino, Riccardo Preve, che dice: c'è una vittima, un eroe della Marina Militare Italiana, nel giugno del 1940 morto un sottocapo sirulista Carlo Acefano nel un sommergibile Macallè colato a picco all'inizio della guerra nel Mar Rosso, la sua salma è ancora in Sudan, usiamo un aereo militare per riportarlo in Italia. Ecco, io sottoscrivo questo appello, non è demagogico, l'abbiamo usata, lo capisco, per la salma dell'ex re dei Savoia, usiamola anche per il sottocapo sirulista Carlo Acefano, vittima del sommergibile Macallè, che è stato seppellito su un piccolo isolotto di corallo nel Mar Rosso per tanti anni. Si deve, grazie ad alcuni come chi lancia l'appello, cioè Riccardo Preve, il fatto che abbia una tomba in Sudan, però dal Sudan a qui l'Italia non ha ancora fatto niente per portarlo. Riportiamo anche Carlo Acefano con un velivolo pagato dal contribuente, non solo gli ex Savoia. Continuate con Radio 24, appuntamento con me alle 16 oggi, naturalmente come sempre con la versione di Oscar.